che nacque nel campo non è seminato. Rosmarin, rosmarin dorato che nacque nel campo non è seminato. Fu il mio amor che disse così che il fior del campo è il rosmarin. Fu il mio amor che disse così che il fior del campo è il rosmarin. Che nacque nel campo non è seminato. Rosmarin, rosmarin dorato che nacque nel campo non è seminato. Fu il mio amore